9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, sempre con i Doors. Vedete che poi tutti i torti non li abbiamo, visto che nella notte di ieri l'accordo greco per le condizioni chieste dalla Troica alla Grecia e per procedere poi alla nuova tranche di aiuti alla Grecia, nonché la trattativa con i detentori dei titoli pubblici greci e anche con l'ipotesi di equiparare la BCE per i titoli greci che ha in pancia al trattamento, cioè all'accettazione delle riduzioni di valore fino al 70% dei titoli greci, non è stato per l'ennesima volta raggiunto. Non ripeterò niente di ciò che non trovate già su tutti i quotidiani oggi, forse eccessi di ottimismo nei giorni precedenti sul sì scontato greco. Il mercato continua a pensare che il sì sia scontato. Io ripeto, se fossi nei politici greci, che capisco trovarmi nelle condizioni di avere un debito fino al 130% del PIL ancora per 10 anni con un paese in ginocchio, ci penserei molto bene ad accettare solo il 70%. È tutto sbagliato il meccanismo sin dall'inizio con cui è stato previsto che paesi possano fallire, o meglio, se questo meccanismo che è stato indicato a maggio del 2010 al vertice di Deauville viene indicato, bisogna poi davvero lasciarli fallire, cioè farli uscire dall'euro. Altrimenti accettare il meccanismo scontando il fatto che per evitarlo i paesi accettino condizioni di recessione in permanenza di vincolo e senza svalutazione monetaria è per me una pericolosa illusione. Comunque vediamo se invece per l'ennesima volta sarà l'ottimismo che si protrae per mesi e che spinge tutti gli altri paesi europei naturalmente a peggiorare le proprie condizioni a dover prevalere, ma conoscete oramai il mio dubbio sistematico, quindi oggi vi risparmio gli accenni alla stampa europea che si accentra tutta su questa vicenda. Mi limito a segnalarvi la bella intervista che c'è oggi sulla stampa, ancora di Maurizio Molinaro della Stampa, al presidente Obama, che è un po' il punto per la visita che è in corso del premier Mario Monti negli Stati Uniti, e ci sono parole del presidente americano che sono enormemente a favore di quello che sta avvenendo nel nostro paese col governo attuale. Si dice che l'Italia si sta sottoponendo, a giudizio della Casa Bianca, a uno straordinario sforzo di modernizzazione della propria economia. Oggi ci occupiamo invece di giustizia. Perché ci occupiamo di giustizia? Per tre buone ragioni. Perché due sono le vicende sulle quali recentemente il Parlamento ha adottato misure che hanno riportato tensione e attenzione su questa materia. Le misure sono innanzitutto lo svuota carceri, è la misura sulla quale il governo e il ministro Severino ha posto la fiducia, è un provvedimento al quale ha lavorato in prima persona con forte convinzione il ministro di giustizia Severino. È un decreto che ha come punti qualificanti tre misure. Una riguarda gli arresti domiciliari con la pena residua che sale fino a 18 mesi, uno riguarda la possibilità di detenzione domiciliare per i reati minori, e il terzo è quello che estende alle camere di sicurezza nelle questure, non in carcere, la possibilità di detenzione. È un provvedimento che nasce dalla soglia puntualmente riraggiunta in poco tempo, troppo elevata, di detenuti rispetto alle possibilità di accoglierli dell'attuale perimetro dei nostri stabilimenti penitenziari, e in ragione del fatto che naturalmente le misure straordinarie per il piano di realizzazione di nuove carceri hanno dei tempi biblici consoni all'amministrazione pubblica italiana, e su questo ci sono state polemiche in realtà in Parlamento con il voto contro della Lega, che ha gridato vergogna vergogna in aula, e l'Italia dei Valori, che a propria volta ha votato contro. Ma la settimana scorsa e molte polemiche su una misura per la quale ieri l'Associazione Nazionale Magistrati ha incontrato il Capo dello Stato, ed è stato un voto parlamentare su emendamento proposto da un parlamentare leghista in materia di responsabilità civile del magistrato. Ricordo brevissimamente la vicenda: c'è stato un referendum accolto e votato dagli italiani con la prevalenza del sì sulla responsabilità civile del magistrato. Rispetto all'attuale disciplina della responsabilità del magistrato, che in sintesi prevede che il cittadino condannato ingiustamente possa rivalersi sullo Stato e che questo poi possa a propria volta rivalersi in caso di dolo o colpa grave sul magistrato, quindi lo Stato indirettamente, non il cittadino, è stato approvato un testo invece che prevede la possibilità di adire direttamente altra corte citando in giudizio e chiedendo i danni al magistrato da parte del cittadino per dolo o colpa grave, che sono già esattamente le due fattispecie per le quali lo Stato si può rivalere sul magistrato, e aggiungendoci una terza ipotesi, la violazione manifesta del diritto. La violazione manifesta del diritto, messa così, a me non sembra configurare niente di particolarmente chiaro, a dire la verità. E quindi il mio giudizio tecnico su quel voto, di cui capisco lo sfondo, per così dire, è che si è fatta molta polemica, ma per qualche cosa che in realtà sta già per i due terzi nell'attuale ordinamento, sia pure, ripeto, con l'ipotesi che sia lo Stato a far da filtro per non sottoporre a condizionamenti il magistrato che assume la decisione. Ma ieri c'è stata un incontro al Quirinale con una delegazione dell'Associazione Nazionale Magistrati guidata da Luca Palamara, che ne è il presidente, e dal segretario generale dell'ANM, che è Giuseppe Cascini, e i magistrati hanno ribadito al Capo dello Stato il loro giudizio severamente contrario rispetto a quel voto parlamentare, perché a loro giudizio è una norma che non ha riscontri nell'ordinamento dei paesi democratici e che non è affatto, poi, come è stato presentato, una conseguenza necessaria delle decisioni della Corte di Giustizia Europea. Su questo punto il governo ha un impegno di arrivare con il dialogo e il confronto con le forze politiche a modificare la legge comunitaria che è stata approvata contenendo questa norma alla Camera, e di chiedere invece al Senato di rivedere questo testo. Quindi, in buona sostanza, anche se il ministro Severino su questo non ha indicato se è d'accordo con l'integrale rigetto della norma richiesto dai magistrati, oppure invece è per una correzione ma meno sostanziale del testo approvato in Parlamento, vedremo cosa succede al Senato. Terzo punto per il quale vale la pena oggi prendere in mano questo tema ricorrente del dibattito pubblico italiano, la giustizia e i magistrati: è uscito un rapporto conclusivo di un'indagine, Quale giustizia in Italia dal 2013, che proprio l'Associazione Nazionale Magistrati ha chiesto a un istituto di indagini demoscopiche di svolgere, con la premessa di considerare oramai chiusa una lunga pagina di scontro con la politica, in parole povere con i governi Berlusconi, con il centrodestra, e in vista di questa svolta più costruttiva, più serena, dovuta all'attuale quadro politico, i magistrati hanno chiesto a un panel di 18 italiani che appartengono alle classi dirigenti, che è stato scelto da questo istituto che si chiama Metodos, di dare delle risposte ai nodi caldi della giustizia italiana, cioè le semplificazioni del sistema processuale, l'organizzazione della giustizia, la formazione, l'accesso e la valutazione dei magistrati, la responsabilità del magistrato, esattamente il punto toccato dal voto parlamentare così discusso, e l'organizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Io faccio notare, da quello che ho visto in questo report, che proprio il punto della responsabilità del magistrato, per così dire, non voglio dire che confermi, ma dà delle indicazioni che vanno un po' sulla linea del voto parlamentare, perché raggiunge una convergenza o comunque una maggioranza di indicazioni in merito al fatto che la responsabilità del giudice debba esserci per dolo o colpa grave, mentre il punto che raccoglie più dissenso in questo panel di 18 italiani, diciamo, scelti come rappresentanti del meglio del paese, sarebbe l'introduzione ai fini della responsabilità e della valutazione della responsabilità civile del magistrato del criterio della proporzionalità tra il provvedimento emesso dal giudice e le conseguenze sull'interesse generale. Ma invece per dolo o colpa grave vi sarebbe un'indicazione convergente. Ora, per commentare queste tre vicende e questo rapporto con la politica più disteso, a giudizio dello stesso ANM nel commentare i risultati di questa ricerca, abbiamo con noi in questa prima parte della trasmissione proprio il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che io saluto e ringrazio, Luca Palamara. Buongiorno e grazie. Buongiorno e bentrovato. Allora, possiamo iniziare innanzitutto dall'incontro con il Quirinale di ieri e da qual è la vostra impressione, che cosa avverrà dopo quel voto alla Camera? Sì, io l'ho ascoltata, non so se un lapsus, però non siamo stati al Quirinale ma a Palazzo Chigi dal Presidente Monti. Ha ragione. So se è stato un suo lapsus, come dire. Allo Va bene stato... a correggermi e la ringrazio. No, ci mancherebbe altro. Diciamo che è stata una giornata molto importante per l'Associazione Nazionale Magistrati, di questo pubblicamente voglio ringraziare il Presidente Monti, il Ministro Severino, il Sottosegretario Catricalà per l'attenzione prestata a quella che è stata un'istanza della magistratura associata. C'è stato un momento di forte tensione e fibrillazione che ancora ovviamente è presente all'interno della magistratura. Io ho ascoltato quello che lei ha detto, perché la norma sulla responsabilità civile approvata la settimana scorsa alla Camera dei Deputati sicuramente introduce un elemento distorsivo con riferimento appunto all'istituto della responsabilità, per le ragioni che cercherò di spiegare in maniera molto breve. Allora, qui bisogna evitare di confondere due concetti distinti: in primo luogo la responsabilità dello Stato, in secondo luogo la responsabilità del giudice. Ma soprattutto non bisogna affrontare la questione partendo dall'erroneo presupposto che in Italia il giudice che sbaglia non paga, perché questo è un dato non rispondente alla realtà e soprattutto non è rispondente al volere, e poi ci colleghiamo al terzo punto, quello del lavoro commissionato, non è rispondente a quella che è stata la politica dell'Associazione Nazionale Magistrati, di chi le parla, della Giunta, in questi ultimi anni, dove abbiamo inteso svolgere una battaglia interna per la valorizzazione della professionalità e quindi soprattutto anche per l'affermazione della responsabilità. Ora, brevemente, come diceva lei, nel 1988 una legge dello Stato, all'esito del referendum, ha inteso disciplinare la materia della responsabilità civile, che originariamente appunto era disciplinata da un articolo del Codice di Procedura Civile, che lo limitava solo ai casi di dolo, di frode e di concussione. Nel 1988, all'esito del referendum, si decise di realizzare un giusto punto di equilibrio tra, ovviamente giusto punto di equilibrio a mio avviso e poi confermato però dalla Corte Costituzionale, tra la necessità di garantire la libertà di giudizio e quindi l'autonomia e l'indipendenza del magistrato e le necessità e l'esigenza di tutelare chi eventualmente avesse potuto subire un danno nello svolgimento della funzione. Questo significa responsabilità civile del giudice, cioè il giudice, se nell'atto del giudicare, nell'atto dell'esercizio delle sue funzioni, per dolo, colpa grave, sbaglia, è chiamato, come tutti gli altri soggetti, a risarcirlo ovviamente nei limiti stabiliti. Solo che la legge del 1988 che cosa dice? Siccome deve garantire la libertà di giudizio, dà la possibilità, previa ovviamente valutazione di ammissibilità del ricorso, di rivolgere la domanda direttamente nei confronti dello Stato, quindi si agisce nei confronti dello Stato, il quale Stato a sua volta può rivalersi nei confronti del magistrato. E questo ha una, come dire, una spiegazione molto logica, quella di garantire anche chi ha eventualmente subito un danno di avere la certezza, da un lato, di poter eventualmente essere soddisfatto delle sue pretese risarcitorie, e soprattutto di avere un'indicazione molto chiara nei confronti di chi agire. È da dire, ed è la cosa più importante, che questa disciplina, quella che sto tratteggiando, è quella che è in vigore nei principali ordinamenti europei, nelle principali democrazie occidentali, a differenza addirittura di altre realtà come quelle americane, dove vige il principio dell'immunità del giudice, cioè risponde solo lo Stato. Inoltre ci sono delle raccomandazioni europee, quindi decisioni a livello europeo, che proprio mirano all'affermazione di questo principio. Ora, qui io la interrompo solo per fare chiarire ulteriormente, chi ha proposto e fatto poi votare col voto segreto la Camera su questa novazio giuridica, per la quale invece c'è la responsabilità diretta e non lo Stato che risponde e poi eventualmente si rivale, l'obiezione che viene è che però in tutti questi anni, su 400 fino a 400 e più ipotetici casi, solo in 4 casi poi è scattata davvero in concreto la rivalsa dello Stato sul magistrato. Quindi si dice in realtà sono i magistrati colleghi a giudicare, i magistrati colleghi non fanno altro che tutelare i loro sodali. No, ci arrivo subito, arrivo in 30 secondi, stavo concludendo il ragionamento. Quindi che cosa è accaduto però? Che ci sono state delle importanti decisioni della Corte di Giustizia europea che hanno affermato che la responsabilità dello Stato, quindi non del giudice, deve scattare anche quando c'è la violazione del diritto comunitario, cioè quando il giudice interno, in questo caso il giudice italiano, nell'applicare la norma non applica il diritto comunitario, anche questa situazione può far scattare la responsabilità dello Stato. Questo era quello che è stato detto a livello comunitario. Si è preso spunto, ecco, questa è la cosa che più fa riflettere a proposito della finalità di questo emendamento, si è preso spunto da queste decisioni per appunto introdurre nel nostro ordinamento, quando si discuteva addirittura della legge comunitaria, cioè quindi di tutt'altro, di introdurre questo emendamento che, come lei ricorderà bene, addirittura risale al marzo del 2011, cioè questo emendamento venne proposto addirittura nel marzo del 2011 parallelamente alla famosa introduzione della cosiddetta riforma epocale, che poi per fortuna è rimasta dove era. È stato proposto questo emendamento per affermare che cosa? Un principio diverso, cioè chiamiamo direttamente e agiamo direttamente non nei confronti dello Stato ma nei confronti del giudice. Ora, l'obiezione qual è? Una è quella che diceva l'obiezione per affermare, diciamo, questa norma, qual è? Si è detto lo vuole il diritto comunitario, falso. Le decisioni comunitarie hanno detto tutt'altro, non hanno detto di chiamare direttamente in giudizio il giudice, perché ci sono atti delle raccomandazioni europee che dicono l'esatto contrario, ma soprattutto non vale nemmeno l'argomentazione contraria. Ci sono state 400 azioni nei confronti dello Stato e lo Stato solo 4 volte si è rivalso nei confronti del giudice, perché il rischio di questa norma è un rischio troppo grosso. Perché faccio un esempio molto pratico: il giudice ha due parti in causa, ad una dà ragione inevitabilmente, all'altra dà torto. Le due parti in causa possono essere uno un piccolo consumatore, una grande multinazionale. Allora, è chiaro che in ogni giudizio c'è almeno una o più parti soccombenti. Uno è arrabbiato nei confronti del giudice, per forza, e quindi quello arrabbiato per forza chiamerà in giudizio il giudice: tu hai sbagliato a sequestrare, tu hai sbagliato a non darmi ragione, tu hai sbagliato ad applicare la norma, tu hai sbagliato ad applicare la clausola. Qual è il risvolto? Quello di paralizzare l'attività del giudice, o meglio, quello di trasformare il giudice in una macchina, in un burocrate, dove tra il valutare e il non valutare l'applicazione o meno di una norma, oppure il riconoscere o meno l'esistenza di un diritto, dice: ma a me chi me lo fa fare se poi devo rischiare di essere chiamato in giudizio e, tra virgolette, di dover pagare un risarcimento che nemmeno sono in grado di sostenere. Anche quello che dice in punta di diritto non si attacca, però a moltissimi, anche a casa con gli sms, dice: possibile 4 in tanti anni. Questo è un po'... E adesso arriviamo a quest'altro aspetto. Quello di cui stiamo discutendo introduce, a mio avviso, se impostato correttamente, un altro tipo di discorso. Cioè, come valutiamo il giudice che sbaglia? Questo è il discorso. Allora, noi che cosa sosteniamo? Sosteniamo che la disciplina attuale è quella che realizza l'equilibrio di cui ho parlato. Se veramente vogliamo invece valutare il giudice che ha sbagliato, dobbiamo fare ricorso ad altri istituti, alcuni dei quali sono presenti, attraverso i quali si può misurare realmente come ha lavorato il giudice. Prima fra tutti il controllo sul lavoro e sull'attività del giudice. Come è noto, dal 2006, poi con l'ordinamento Mastella, ogni 4 anni il lavoro del giudice deve essere valutato ai fini della progressione in carriera, e da questo punto di vista è quanto mai importante e fondamentale che nello svolgimento dell'analisi quantitativa e qualitativa del lavoro svolto dal giudice si tenga conto di quello che è stato il suo lavoro negli anni e quindi eventualmente anche dei casi giudiziari erroni dallo stesso trattati ai fini dell'impedimento della progressione in carriera. L'altro aspetto fondamentale, quello della responsabilità disciplinare, sono questi i meccanismi attraverso i quali valutare o meno se il giudice ha operato bene, ma trasformare la responsabilità civile con la chiamata diretta significa appunto, trasformare la responsabilità civile in una sorta di responsabilità paradisciplinare, cioè dire non ci fidiamo di come svolgere i controlli e di come funziona il sistema disciplinare, quindi introduciamo un meccanismo attraverso il quale è il cittadino direttamente, la collettività, che valuta se il giudice ha operato bene, ma questo significa andare contro quello che è scritto nella nostra Costituzione, dove va garantita l'indipendenza del giudice, dove è lo Stato, sono i cittadini e il popolo, il famoso patto sociale, che vuole un gruppo di persone destinate a valutare il caso concreto e quindi ad applicare la legge senza essere condizionati nello svolgimento dell'attività. Quindi, per concludere e per rassicurare i cittadini, il giudice che sbaglia deve pagare, ma deve pagare nella maniera corretta per garantirgli equilibrio e serenità di giudizio. Se noi miniamo queste due situazioni, rischiamo di paralizzare il giudice nello svolgimento dell'attività e quindi di svolgere un risultato concreto. Quanto all'obiezione dei 400 casi, allora qua il problema qual è? Bisogna valutare quante azioni sono state fatte nei confronti dello Stato. Il dato che lei ha dato, glielo confermo, è un dato corretto. Significa che in 400 casi determinate parti in causa hanno deciso di agire direttamente nei confronti dello Stato. L'altro aspetto è un aspetto che non può riguardare direttamente il magistrato, perché lei sa che ogni magistrato, tra l'altro, ha un'assicurazione sulla responsabilità professionale che come tale eventualmente ed evidentemente lo garantisce, e che questo è un problema che non può essere imputato ai magistrati, può essere imputato a colui il quale è preposto poi a rivalersi ad agire nei confronti dello Stato. Ma questo è un qualcosa che riguarda il rapporto Stato-magistrati, è la parte successiva, direi, dell'azione, non la parte principale. Sì, io ho l'obbligo semplicemente di dirle che anche stamane ha una banale, che non è esemplificativa perché non è fatta con un campione demoscopico, ma è fatta semplicemente con il criterio di chi ci manda messaggi, anche oggi la maggioranza, la stragrande maggioranza di chi manda messaggi al 349-238-6666 mentre parliamo, dice sì, però in teoria tutto bene, tutto giusto, in pratica i responsabili, i magistrati che hanno emesso sentenza in casi che poi si sono rivelati di conclamata improprietà giuridica, giudiziaria, inappropriatezza su come erano state compiute le indagini, su come il giudice ha asseverato l'impianto accusatorio eccetera eccetera, dai casi torto e poi naturalmente la gente ripete quelli di cui gli è rimasta più memoria, non si hanno poi esempi di carriere dei magistrati sulle quali poi nel giudizio ogni 4 anni sul loro progresso di carriera davvero ci sia stato questo peso così determinante. Questa è un'obiezione critica che voglio accettare, questa l'accetto, però io ritengo che due debbano essere i punti fermi, che la strada da seguire appunto è quella che io dicevo, che va indubbiamente migliorato il sistema di funzionamento dei controlli, che è la sfida che poi appunto ci ha portato a commissionare pure quel lavoro, poi ne parleremo dopo, dove indubbiamente la modernità del sistema giudiziario, la modernità della magistratura passa attraverso la necessità e direi quasi l'obbligo conseguenziale di dare al Paese magistrati il più possibile professionalmente attrezzati, e dove sicuramente è fondamentale che i controlli non siano controlli fatti tanto per farli, ma siano controlli veri ed effettivi sul lavoro svolto dal magistrato. E siccome parliamo di una legge che comunque è entrata in vigore 4-5 anni fa, c'è stato solo un consiglio giudiziario, un consiglio superiore della magistratura che durano 4 anni, ora c'è il secondo che lo sta valutando, indubbiamente è una legge perfettibile, modificabile. Legge va rodata. Va bene, indubbiamente questi aspetti devono essere valutati. Eccoci qui tornati in studio, stiamo parlando oggi di magistrati e giustizia, abbiamo dedicato la prima parte della trasmissione, e con noi Luca Palamara, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, a un'analisi sul punto toccato da questa norma che era stata approvata dalla Camera, proposta da un parlamentare della Lega, onorevole Pini, con la responsabilità diretta responsabilità del giudice, responsabilità civile nei casi di dolo, colpa grave e violazione manifesta del diritto. Ieri l'incontro con Monti e l'ANM, e il presidente Palamara ci ha spiegato come a giudizio dell'ANM si debba tornare a una situazione nella quale, come previsto la legge post referendum dell'87, la possibilità per il cittadino, il condannato o il soccombente in giudizio sia quello di rivalersi sullo Stato, non sul giudice e sul magistrato, sullo Stato, e poi sia lo Stato a valutare l'ipotesi di rivalersi sul magistrato. Anche se questo è avvenuto poche volte sugli oltre 400 casi in cui lo Stato è stato chiamato in causa dalle parti soccombenti, solo 4 casi. L'ANM dice ci sono meccanismi che sono interni alla valutazione poi di come il giudice e il magistrato svolge il proprio mestiere, e riguarderanno poi i pesi e i giudizi che si daranno sulla carriera. Questa è la tesi che ci ha illustrato Palamara. Ma la riflessione vogliamo estendere un po' più ampiamente su questo specie di cambio di passo che l'ANM anche ieri, dopo aver visto Monti, ha confermato su un'atmosfera politica più distesa, che consentirebbe forse qualche passo in avanti sulla riforma della giustizia, poiché sarebbe venuto meno lo scontro astioso che in tanti anni l'ANM ha denunciato essersi riservato dalla politica, cioè dai governi Berlusconi e dal centrodestra. È chiaro che chi come me ha sempre preferito una riforma ordinamentale, legge ad personam, da un certo punto di vista se lo augura. Io poi dopo tanti anni ho anche un po' abbandonato la speranza, perché io sono di quelli che ragionano che in buona sostanza, con tutte le sottigliezze e gli approfondimenti del caso e le specifiche dei diversi modelli nazionali, però insomma ci sono tra i modelli di riferimento, ce ne sono un paio grandi modelli di riferimento, ci sono i modelli di riferimento degli ordinamenti hanno i CSM, e però molto spesso, quasi sempre, a quel punto il CSM vede un PM separato dai giudici, e anzi vede PM talvolta sottoposti quasi direttamente al governo, come Francia. Non ho detto che io sono per questo modello, perché non è che non intraveda le possibilità molto ampie, a cominciare dalla Francia, che le ha sempre riproposte, dell'assoggettamento a quel punto del magistrato che compie le indagini a indirizzi politici. E c'è poi un sistema che è quello anglosassone, in cui le carriere sono proprio nettissimamente separate e non c'è il CSM. Noi ci siamo inventati una cosa completamente diversa. Il mio giudizio personalissimo è che io rimango molto critico sull'efficienza generale di questo modello, che forse esso stesso ha prodotto poi tante polemiche con la politica. La politica poi negli ultimi 17 anni ci ha messo nel suo, per così dire, visto che bisognava difendersi dai processi invece che nei processi con leggi nuove. E il risultato è che naturalmente stiamo dove stiamo. Allora, si è aggiunto con noi per questa seconda parte della trasmissione, però riprendiamo con Palamara proprio da questo giudizio, se ci sia davvero questa serenità politica e cosa consentirà di fare, si è aggiunto con noi il professore Giuseppe Di Federico, che chiamiamo spesso ogni tanto, ma insomma professore emerito di ordinamento giudiziario all'Università di Bologna, ex consigliere del CSM, per me personalmente, per la mia formazione personale, un punto di riferimento per quello che scrisse e fece in tanti anni, in coerenza più o meno con quello che vi ho detto, cioè il fatto che bisogna mettere mano a riforme ordinamentali invece che pensare alle polemiche e agli scontri. Buongiorno e grazie al professor Giuseppe Di Federico. Buongiorno, grazie a voi. Allora, Palamara, questa atmosfera più serena, A, c'è davvero? B, cosa consentirà di fare secondo lei? Sì, allora io la ringrazio, perché poi purtroppo, come dicevo, devo lasciarvi per motivi di lavoro. Allora, chiudendo solo il ragionamento precedente, volevo dire che è ovvio che non deve passare il principio in virtù del quale il giudice nel nostro paese è irresponsabile, perché noi per primi riteniamo e siamo fermamente convinti che in realtà è un'attività in relazione alla quale devono essere previsti dei paletti, il giudice per primo deve rispettare le regole, punto. Detto questo, è ovvio che noi dobbiamo registrare nell'ultimo periodo una fase diversa che sta affrontando il paese, e anche ritengo dovendo affrontare temi a lei cari, che sono cari per tutti i cittadini e quindi anche per noi, cioè il problema della crescita, dell'economia, quindi della legalità e quindi della necessità di recuperare risorse. Sicuramente viviamo una situazione nettamente diversa rispetto a quella degli ultimi anni, dove un giorno sì e l'altro pure eravamo impegnati a spiegare che cos'era il processo breve, che cos'era il processo lungo, che cos'erano le intercettazioni, la blocca processi e via diverso. Oggi c'è un problema diverso, cioè dobbiamo preoccuparci di come recuperare risorse, di come far funzionare meglio la giustizia. L'Europa ci dice riducete il contenzioso del 20% e dovete velocizzare i tempi dei processi, quindi indubbiamente una sfida nuova. Devo dirle la verità però che già nel momento che tra virgolette viene chiamato scontro politica magistratura, quello dell'ultimo periodo, quindi del governo Berlusconi, l'Associazione Nazionale Magistrati per prima, nonostante la difficoltà del momento, si era posta l'obiettivo di esaminare e analizzare ciò che al proprio interno non funzionava, ciò che aveva funzionato e non funzionava più, proprio perché si poneva nell'ottica di una magistratura moderna e quindi, come dicevo prima, di dare al Paese non solo dei tribunali moderni e efficienti, ma anche una magistratura diversa e quindi al pari con i tempi. Tutti questi discorsi ovviamente sono rimasti un po' nel cassetto, non hanno sfondato perché all'opinione pubblica interessava, tra virgolette, lo scontro, la lotta, il processo, la magistratura contro questo o contro l'altro. E devo dire la verità, purtroppo, lei che è un osservatore, capisce bene che quando c'è la volontà di cambiare pure all'interno delle associazioni, nessuno ci crede, perché si pensa che sono delle situazioni che devono rimanere per forza immutabili. Noi ci abbiamo provato e secondo me abbiamo tracciato una linea, un ritorno che deve essere eseguita e deve essere, come dire, incentivata, e che passa attraverso un concetto molto semplice che noi chiamiamo autoriforma della magistratura, che passa attraverso tre punti saldi: la scelta delle dirigenze, i controlli, come dicevo prima, e soprattutto una vera sfida sulla organizzazione degli uffici. Oggi appunto siamo chiamati a questa nuova sfida, solo che, come lei vede, nel momento in cui sembra che possiamo affrontare questi temi, ti viene fuori poi un emendamento e che sembra risucchiarti al passato. Secondo me oggi noi dobbiamo entrare invece in questa ottica di rilanciare temi nuovi e diversi all'attenzione dell'opinione pubblica, che sono quelli che noi abbiamo avuto il conforto anche all'esito di quella riunione che abbiamo commissionato, e secondo me ci sono le possibilità in questa fase di individuare di fare non una riforma ad ampio raggio di 360 gradi, ma di individuare almeno dei punti strategici da perseguire. Prima fra tutti quella di mettere mano con coraggio alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, cioè dare un assetto diverso ai tribunali sul territorio, cosa che non ha mai fatto nessuno in 130 anni in questo paese, perché si toccano interessi contrapposti, magistrati, avvocati, politici. Dare un serio impulso al contrasto alla corruzione e all'evasione fiscale per trovare nuove risorse, così come mettere mano alla disciplina della prescrizione, e fare un serio discorso di informatizzazione degli uffici giudiziari. Secondo me sono tre punti nell'immediato che poi possono essere la scusa per affrontare tutti gli altri aspetti che indubbiamente... Allora, noi dobbiamo andare a traffico. Dottor Palamara, guardi, io me lo auguro davvero. Ora non abbiamo tempo per approfondire. Lei sa meglio di me che abbiamo speso per l'informatizzazione, a seconda se prendiamo i periodi dall'inizio degli anni 90 fino al 2007, arriviamo a oltre 3 miliardi di euro, quindi non poco, e i server ancora non si parlano. E quindi sa, chi dice risorse, le risorse nei limiti di un bilancio scarso sono state anche date, della verità. Però detto tutto questo, io mi auguro davvero che la magistratura capisca che i cittadini italiani, non gli elettori di questo, ma i cittadini italiani, continuano ancora adesso a vedere e a dire che se un medico sbaglia, un medico va sui giornali ed è morto e poi risponde civilmente e penalmente. Ho qui 10 mail ancora adesso nell'ultima ora. Certo, amministrare la giustizia è cosa diversa, però come il medico ha a che fare con la vita dei suoi pazienti, il magistrato decide della libertà, del patrimonio, decide di ciò che è più sacro, e la gente è convinta, anche voi non ne rispondiate. Questo è il punto di fondo, e non c'entra più niente oramai Berlusconi, non Berlusconi. Questo è un punto aperto e secondo me sanguinosamente aperto in ciò che gli italiani pensano di chi ha il compito, con quella toga che non è quella dell'avvocato ma è quella dello Stato, di tentare di dare una sostenibilità e una credibilità alla giustizia. E questo secondo me è un punto che non abbiamo risolto proprio per niente. E mentre torno i dorsi, io faccio la domanda al professor Di Federico. Ci crede lei, professor Di Federico, che si sia aperto finalmente questa finestra in cui vedremo queste riforme, vedremo una responsabilità davvero dei magistrati, vedremo le carriere giudicate, vedremo le circoscrizioni giudiziarie diminuire con principi di efficienza, vedremo banche date sulla produttività dei magistrati che fino a questo momento nessun ministro è riuscito a introdurre, perché i magistrati dicono le valutiamo noi. Lei che pensa? Ma sa, sono anni che la magistratura, come ha di nuovo proposto il presidente Palamara, parla di autoriforma, è come se il resto del sistema statale politico non dovesse entrarci, insomma, come se fosse cosa loro. E infatti tutte le volte che ci si prova si viene fermati, così come è capitato anche nella responsabilità civile, l'avete ricordato. Io non credo molto complessivamente a risolvere i problemi della responsabilità dei magistrati con la responsabilità civile o anche con quella disciplinare, perché questi sono tasselli di un sistema di responsabilizzazione che è molto più complesso, che va da come viene fatto il reclutamento alla formazione iniziale e continua, al rigore, come voi avete ricordato, con cui vengono effettuate le valutazioni di professionalità, ai poteri di sorvisione dei capi degli uffici, come ha ricordato poi lo stesso Palamara. Questi sono tutti elementi di grande rilevanza, e Palamara ha fatto anche riferimento, e l'ha fatto anche lei, alle valutazioni di professionalità. Noi sono 40 anni, più di 45 anni che non ne vediamo in questo paese. I magistrati diventano tutti bravissimi ufficialmente senza nessuna reale loro valutazione, nonostante la Costituzione prevede che il CSM faccia valutazioni di professionalità. Nel 2006 Castelli aveva provato a riformare, rendere le valutazioni di professionalità più rigorose. Mastella ha cambiato il sistema, il ministro Mastella, però non ha prodotto effetti, anzi ha prodotto effetti contrari. Abbiamo una delle leggi più dure, più invasive di valutazione sotto il profilo formale, e invece rispetto a prima il numero di valutazioni negative è fortemente calato. Ma diciamo la verità, professore, io sono sempre... Sono dati. Sì, no, certo. Tra l'ottobre 2007 e luglio 2010 sono state effettuate 2.297, 2.300 valutazioni. Nessuna valutazione negativa. E solo 3 magistrati hanno voluto valutazioni non positive. Quindi uno per mille, mentre una volta in precedenza era lo 0,45%. Quindi all'aumentare dei criteri di valutazione è conseguita una diminuzione della valutazione negativa. Quindi credere all'autoriforma, certo qualche passo può essere fatto innanzi, ma senza un intervento sistemico sul nostro sistema è difficile che possano esserci dei mi dispiace che Palamara se ne sia andato, perché mi sarebbe piaciuto sentire cosa diceva. Io sono dell'idea che ormai conosciamo le posizioni, professore. Io purtroppo la penso come lei. Io penso che il bilancio di questi anni, cioè invece che fare riforme incisive ordinamentali sul reclutamento e le separazioni delle carriere, questo sarebbe stato il compito dei liberali. Non lo hanno fatto avendo la maggioranza, e noi ci beccheremo adesso 30 anni di assoluto predominio della tesi per cui solo la magistratura può toccare se stessa. Io a questa strada non credo, non c'entra il rispetto per la magistratura e la giustizia, credo che sia l'ennesima, purtroppo, pessima eredità di chi ha avuto maggioranze tante volte per poter cambiare pensando all'ordinamento invece che a se stesso. Questa è la mia opinione, io ringrazio il professor Di Federico, ringrazio Palorama, abbiamo finito il tempo, appuntamento a domani. 9 in punto, la versione di Oscar.